Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sento che mi sto avvicinando alla fine del mio errabondare lungo le strade ferrate d'Italia. Bello questo termine arcaico. Sì, perché rincontro sempre le stesse persone. C'è questa sorta di assurda ricorrenza che alla fine, nell'avvicendarsi dei passeggeri di un treno, mi sembra di vedere sempre facce conosciute. Non potevo certo dimenticarmi dell'affascinante personal trainer leccese, giovane salentina, aspirante avvocatessa, con una famiglia solida alle spalle, che in realtà la vorrebbe, una regina della masseria. E lì mi guarda, qualcosa è cambiato l'ultima volta che l'ho vista, ha un lampo diverso nel suo sguardo e probabilmente questi mesi che sono passati dal nostro ultimo incontro l'hanno segnata profondamente. Continui a fare la personal trainer? Sì, sto continuando. Ti mantiene gli studi, mi sembra di ricordare. Sì, sì. Ti basta, sì? Sì, perché comunque mi aiutano i miei genitori anche, quindi. Dai, ce la farai. Quanto ti manca laurearti? Due esami più la tesi, quindi. Puoi fare l'avvocato, quasi. Fare l'avvocato. No. No, e cosa vuoi fare? Più che altro mi piace il ramo artistico, quindi. Ah, perché studi giurisprudenza? È la vita, no? Vabbè, è una fatica inutile, è una tortura. No, perché comunque mi piace. Vabbè, ma se non la metterai in pratica, cioè, potrei fare, non so, una scuola d'arte. Perché tu hanno detto che vogliono una figlia avvocata. No, voglio una figlia laureata. E quindi per fare contento papà ti lauri in giurisprudenza? No, anche per fare contenta me stessa, perché comunque è un obiettivo, no? Anche se comunque non è. Ma come si fa a studiare qualcosa di arido come il diritto se uno ha in mente di fare l'artista? Il diritto non è arido. Ma no, è l'antitesi dell'arte comunque. Beh, sì. È regola, l'arte è sregolatezza totale. Vabbè, diciamo che rispecchia un po' la mia personalità, no? Devi importi una regola per poterti godere la sregolatezza. Esatto. A me questo va bene. La sregolatezza non avrebbe senso se uno non avesse qualcuno che te la impedisce. Infatti. E la tua sregolatezza qual è? Di essere, di avere molte personalità. Ah, sì? Una artistica, una più razionale, quindi. Non lo consideri, diciamo, patologico questo, no? No, interessante, anzi. Dimmi come esprimi la personalità artistica, perché a questo punto mi incuriosisce. L'esprimo mediante che so, scrivo molto, oppure vado al teatro, faccio danza. Ma come ti vedi te? Ti vedi una danzatrice, una pittrice, una poetessa, una scrittrice? Se tu dovessi scrivere il tuo futuro di espressione artistica. Un lavoro che unisca tutte e due, cioè il lato razionale un po' anche di intelletto con quello artistico. Cioè, non riesci a trovarlo? No. Non lo so, è difficile, tutti vorrebbero lavorare divertendosi. Però alla fine i puntini si uniranno, no? Penso. Ma sai, anche i lavori che sembrano più divertenti poi sono noiosissimi. Sì, a lungo andare infatti, è così. Ecco, in palestra come va la vita? Bene, un po' di monotonia. Monotona anche la palestra? Eh sì, vabbè, perché comunque per le persone altre non è che è l'ambizione della mia vita, no? Cioè, alla fine. Avevi parlato di uomini l'altra volta, molto attenti alla loro immagine estetica. Cosa va oggi nell'universo maschile? Sempre la depilazione totale? Sì, sì, sì. Penso che appunto sono uscita con uno molto simile ai miei clienti, tutto sistemato. Ma era un tuo cliente? No, non era un mio cliente. Però lo vedevi, da cosa si vede l'uomo sistemato? Vestito, dico, finché vestito. Vestito, camicia su misura, tutto firmato. E non è da coatti essere tutti firmati? No, dipende. Ci sono i coatti e ci sono quelli un po' più elegantini, troppo eleganti. Cioè questo era un troppo elegante? Sì, troppo elegante, troppo figo. Cioè. E quindi gay? Sì, tendente, cioè io non è che lo vedevo proprio come il maschio rude, quindi non... Vabbè, un uomo quando diventa esagerata la cura del corpo, forse c'è qualcosa che si arretra rispetto alla virilità, non lo so, penso. No, è vero, è vero. Penso che lui amava fare shopping, cose che io... Vabbè, divertente, comprarsi cose belle sono poi divertenti. Sì, ma troppo no, cioè per un uomo poi... Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Quando facevate shopping che comprava? Camicie, pantaloni, cioè tutto firmato, tutto su misura, andava nei camerini, stavo ore nei Era camerini. Era anche ricco? Tutto perché... Sì, molto ricco, però... Da solo spendere il suo denaro? Sì, esatto. E quindi si abbigliava continuamente? Sì. E questo gran guardaroba poi che ne faceva? Beh, si cambiava più volte si cambia, sì sì sì, cioè nel senso si cambiava sempre, ogni giorno diverso. Poi vabbè, mi portava a cena fuori tutti i giorni. Voleva fare colpo, pranzo, cena, sì sì. Belle macchine, belle macchine, mi chiamava Cenerentola, mi apriva la... Ah, gli piaceva fare sì il galante così, però tutto fumo e niente aveva arrosto. Visto troppe sfumature di grigio, però sì, un po' troppe. Ah, è quello il fatto. Quindi c'aveva una bella casa. Sì, è una bella casa. Tutta bella, design. Sì, sì, sì. E l'angolo della consumazione com'era? No, l'avrei visto, non dico che l'hai frequentato, ma l'avrei visto. No? Eh beh, sì. Com'era? Bella camera. Luci? No, candele. Candele? Sì, sì, fa tutto... Tutto lume di candele. Tutto lume di candele, esatto. Cena, tutto. Tutto a casa era? Mm-hmm. E la cena la preparava lui? No, mi portava a cena fuori. Cena fuori, per casa tornava che c'era a casa, le candele basta. Da bere, sì. Cosa c'è? No, voglio capire, io queste cose non le avrò mai nella no, vita. No, diciamo che appunto noi donne a volte... No, voi donne piace, chiaro. No, piace, però confondiamo questo con l'innamoramento. Cioè, nel senso, molte donne confondono questo lato un po' galante, un po'... Sì, le donne in questo sono molto stupide. Esatto, sì. Una donna una volta si è commossa perché l'ho aperto lo sportello. Cioè, che gesto meraviglioso. Infatti... Ma come viene automatico, stavo da questa parte, cioè non è che... È vero, quello non c'entra nulla con l'innamoramento. Anzi, se lo fanno alla prima seconda sera, significa che vogliono soltanto divertirsi, secondo me. Se iniziano a farti complimenti, a dire sei bellissima. Però con gli uomini, la donna piace tanto. Dicono che belle scarpe. Sì, ma hai. Loro si innamorano poi, cioè le donne. Le quindi... donne si innamorano molto facilmente. Quello è il problema. Ma con me non ci cascano. Con te no? No, no. Non vale, non c'è complimento che serva. No. Quindi ha cominciato a farti complimenti. Sì, dal primo giorno che ci siamo visti. Dirti cosa che eri bella. Sì. Ben sì. Vestita. Sì, che era interessante, parlava quasi di storie serie, no? Cioè, nel senso. Dopo mi ha detto, giorni. Ma tu sei fedele? Ho detto, ma che domanda fai? Scusa, ma tutta sta fatica per trombarsi una, non fai prima a dirti, guarda, mi piace tanto, se ti va, mi piace. Ma infatti tutti questi complimenti mi infastidivano. Ma le donne vogliono sempre una scusante, sai, adesso non sarà il tipo di persona, ma vogliono sempre una scusante. Vogliono sempre illudere loro stesse che hanno ceduto perché era un grande amore, non perché gli piaceva una persona. No, è vero. È vero, no, questo, sì, questo vero. L'ho capito alle donne. En attendant la fin du monde, tu voudrais croire que l'histoire se terminera bien. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi un simulatore di grande amore ottiene molto più che una persona onesta, dice guarda mi piace proprio tanto, quando ti vedo mi si rizzano i capelli, quindi forse magari proviamo a scambiarci fluidi, vediamo che succede. Sì. Invece no. No, invece no. E qui tutta questa manfrina bella. Tutto questo, oddio, sì, per una settimana. Sei interessante, ma cosa fai nella vita? Sì, sì, è bello quello che fai. Io parlavo, quello non capiva nulla, perché io comunque appunto... Poi effetti che c'è di bello, vai all'università, è una cosa noiosissima. Sì, però per esempio gli dicevo quello che scrivevo, tutto quanto, e lui... Fingeva di interessarsi. Sì, esatto, sì. Ma lui faceva un lavoro interessante, un ingegnere. Ingegnere aerospaziale. Aerospaziale? Sì. Vabbè, faceva un lavoro molto interessante. Sì, sì, però... Single? Sì, quello, per quello che mi diceva. Età lui, più sì. o meno? 28. 28? Mm-hmm. Ma ragazzino, giovane. Sì. Ma già ingegnere a 28 anni. È un sì, prodigio. No, è molto. Sì, sì. Sono intelligente. Prodigio, sì, molto intelligente. Io la vedo da un altro punto di vista. È un fortunato che ha un bel lavoro e una bella posizione invidiabile. Probabilmente anche una bella presenza, probabilmente anche un certo gusto. È capito che forse è un momento si vuole godere la vita. Quindi prende ragazze carine e desiderose d'amore e le appaga e poi le manda a quel paese. Mi sembra una perfetta equazione. Sì, lo so, per mia madre era perfetto proprio. Ah, poi le mamme, figurati. È la legge della maniglia quella, sai, esatto, no? Prima sì, la madre, sì, poi la figlia. Del sud, soprattutto, no, era perfetto. Per la mamma lui... era perfetto. Ah, perché era venuto anche in casa? L'hai portato? No, in... gliel'ho raccontato. Beh, era ricco, le mamme, tanto sei ricco, sì. Già questo, già ti vede sistemata. Infatti, mi vedeva sistemata. Ma cos'è che in te invece non ti suonava giusto di questa persona? No, il fatto che era troppo. Troppo? Troppo, cioè troppo... troppo elegante, troppo curato, troppo sistemato, troppo intelligente, no. Non vedevi, non vedevi un'evoluzione, cioè già c'è tutto, cosa posso investire in quest'uomo? Cioè aveva tutto e niente. Ma perché spaventa un uomo che è troppo? Fammi capire, non c'era un difetto? Dipende, cioè, dipende, nel senso che... Non era interessante, già c'era tutto, era come, diciamo... una lista di nozze, c'era tutto. Non aveva nessun segreto a livello proprio di fascino. E questo che ne sai? Ma si vede, dai. Non aveva nessun segreto? No, cioè nel senso era semplice così, andava andava tipo al lavoro, tornava a casa, andava a divertirsi con gli amici la sera. Beh, una persona banalmente brillante, come si dice oggi. Piace molto, ha molto successo questo tipo di uomo. Boh, no, non è il mio tipo. Vabbè, perché tu sei esigente, hai quel ramo di follia che fa sì che non segui il solco della tradizione salentina, che hai trovato un bravo ragazzo, solido, se anche bello e carino meglio, così avrai dei bei figli, accalappiarlo con lacci d'amore e far sì che ti sposi. E poi dopo infatti. Magari... No, così no, non esiste. Per tua madre era già fatta, era già nel sacco. E perché è finita? Perché l'ho fatta finire. Come gli hai detto? Sono sparita. Sei scomparsa? Sì. T'ha cercato per un po'? Sì, per un po' sì. Perché sei caruccia, anche lui era carino. No, perché lui era molto bello. Sì, vabbè, ma se tu eri cozza col piffero che ci perdeva tempo con te. Questo vabbè, adesso sta con una cozza. Sta con una cozza? Sì, è bruttissima la ragazza. E qual è? Secondo te perché sta con la cozza? Perché come lui, nel senso a livello di... Perché sai, poi gli uomini e le donne carine tendono comunque a trovarsi sempre il compagno meno bello di loro. Sì? Sì. Questo non lo sapevo. Io faccio così. Perché tu ti consideri molto carina, quindi privilegio, so. Diciamo quelli troppo belli. Fai la carità piacciono. All'umanità svantaggiata. No, non c'è. No. Dandole la tua compagnia. No, quelli troppo belli non mi piacciono. Troppo bello, a tutti piacciono le persone belle, questo è poco ma sicuro. Però bisogna vedere alla fine. T'ha lasciato niente, come berti un bicchiere d'acqua, perché non ti vedo particolarmente colpita. No, non mi ha lasciato nulla. Le sue belle camicie, il suo bel profumino, la sua bella casa, sì. Le candele e le chiacchiere. Le candele sono... si sono consumate. Vabbè, le vendono anche all'IKEA, costano più soldi. Non è che sia proprio tutta sta botta di vita le candele. Sì, le vendono le bancarelle, cioè... lo so. Ma la candela, diciamo, è un po' passata. Meglio una luce LED. Almeno fa più, esatto, almeno fa più luce, no? Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Questa è stata la cosa che è accaduta dall'ultimo viaggio che ci siamo fatti assieme. Il passaggio del principe azzurro, che in realtà era un celeste slavato. Sì, esatto, sì. E nient'altro? E dai, su. Perché per quanto riguarda appunto le donne, cioè le madri, no? Meridionali, sì. Tutto quanto, vorrei raccontare quello che è successo alla mia amica. Praticamente si è fidanzata con un uomo di colore e la madre napoletana ha chiamato l'esorcista. Ah, perché pensava che lo chiameranno Ciro, nasce Nero. Sì. Lei ha trovato questo ragazzo africano, gli è piaciuto. Esatto, sì. E si è fidanzata. Si è fidanzata. Ma strano, Napoli è una città abbastanza multietnica, c'è una tradizione. No, lei è di un paesino vicino a Napoli. Ah. Cioè, e si è presentata ricordo. come nel noto film col fidanzato. Col fidanzato di colore. E la mamma sì. Che ha detto? E la madre che ha chiamato l'esorcista. Perché? Pensando che è indemoniata? Sì, pensando che la figlia è indemoniata, sì. Ma perché è indemoniata? Perché era nero. Sì, perché era di colore e perché lei come mia madre, quindi appunto la similitudine tra donne del sud... E voleva appunto il ragazzo ricco, sistemato. E lui era un po' un venditore di borsette, cos'era? No, lavorava in un bar, mi sa. Ma comunque aveva un lavoro, era una persona che lavorava. Sì, ma vado a dire allora. Era un bel ragazzo? Sì, carino. E lei cosa ha fatto allora? di fronte a questa presa di posizione della mamma? No, ci sta ancora insieme. Ah, quindi ha mantenuto la posizione? Sì, ha mantenuto la posizione. E la mamma, com'è successo? La dinamica, l'ha portata all'esorcismo? Ha chiamato il prete e ce la benedica mia figlia? Sì, che cioè sarà? Ora non so di preciso, però appunto per mettere in evidenza appunto il problema. E lei ancora parla con sua madre? Non tanto. Allentato il rapporto? Sì, allentato il rapporto. Certo, voi ragazze del sud, le mamme, è un peso costante che mamma mia, va dietro sì, per tutto tutta tutto la vita. Sì. Ti devi laureare, ti devi sposare, devi avere figli, tutte queste cose. Ma lo sai, te lo dirà finché tu avrai 60 anni se lei sopravvive. Io ho amiche oltre la quarantina che hanno ancora madri addosso che si aspettano a loro chissà che non hanno il coraggio di raccontare alle madri le loro storie perché sanno che le madri non approverebbero, fingono con le madri che sono ancora vergini quando vivo sole da 20 anni, capito? Lo so, infatti. No, vabbè, io non sono così, cioè io lotto alla fine, cioè per ottenere quello che tu voglio. Tu c'hai già un'autonomia, vivi sola questo sì, quello sì. Difficile tornare, tu ci torneresti indietro al paesello, no? No, assolutamente no, no, perché non c'è nulla da fare alla fine. Cioè, infatti vedo i miei amici che stanno giù tutto l'anno e non... Beh, poco tempo, la laurea è vicina, poi che fai? Getti là ancora, come fai? Non so quello che succederà, non lo so. Qualcuno che ti mantiene o strumenti per mantenerti? Due sono le cose. Ti fai mantenere da tuo padre e vivi felice, perché anche questa è un'alternativa. No, assolutamente no. Non ci trovo niente di scandaloso. Adesso la gente inorridirà, ma i genitori alla fine servono a questo. Lo so, però non... No. Quindi sei ancora in aspettativa. Ma quanto è importante, scusa, lo snodo di un compagno di vita o di un compagno di piacevolezza in una situazione come la tua? Molto, ma tu hai bisogno importante. Di un uomo? Sì, molto. Ma però non è essenziale, perché comunque bisogna un attimino stare bene da soli anche, no? Cioè una donna deve stare bene da sola, altrimenti... Sì, se impara a stare da sola già ha guadagnato molto. Sì, perché noi donne siamo troppo... proiettiamo la nostra vita, le nostre sicurezze su un'altra persona, no? E invece no. Lo facciamo tutti noi, anche noi uomini. Sì, però le donne... Quando una donna un po' dice di più, sei penso... bello, sei stupendo, quanto sei virile... quanto sei intelligente, le nostre sicurezze vanno alle stelle. Se una donna ti guarda come si guarda un rospo per strada, ti casca qualcosa un pochino, capito? Tutti abbiamo bisogno. Sì. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Senti una cosa, ma tu hai amiche? Sì. Ecco, quanto vale il confronto con le amiche? Perché le amiche, naturalmente... Tanto. Le amiche vogliono sapere tutto di te, naturalmente. Sì, ovviamente... E tu sei tutto delle amiche. Sì, scatta l'invidia. Guai non raccontare esempio. Le amiche. Esatto, se un'amica appunto sta in una situazione più... avvantaggiata rispetto alla mia, scatta la gelosia, quindi da migliore amica diventa nemica quasi, capito? Perché tutte si vantano, uomini stupendi. Sì, bellissimi. Tutti si vantano, e il mio uomo qua, il mio uomo là, poi vai a chiedere all'uomo ed è tutto falso, perché mi è capitato. Certo. Io invece no. Sono punti di vista sempre distorti. Esatto, sì. Sembrano tutte felici, realizzate, contente. Invece... Ma questo lo fanno perché vogliono farti comunque... Quindi le amiche del piffero non sono amiche. Secondo me non ci può essere amicizia in queste cose. Esiste una sorta di bene a cui tutti vogliono attingere, che è il patrimonio sentimentale affettivo. Mm-hmm. È come una fetta di una torta. Ognuno si prende una fettina, ma se prendi la fettina me ne mancherà un pezzo a me. Quindi non sono proprio contento che tu ti mangi la torta. Quindi... Anche se sei comunque, se vuoi bene a quella persona. Sì, ma è troppo forte, scherzi. E quindi dimmi la media degli uomini che hanno le tue amiche. Così voglio capire, diciamo una ragazza... laureanda fuori sede, banalmente con chi si accompagna? Con uno compagno che, università laureando, sì. Compagno università, quindi ancora sei ragazzine ancora. No, io no, cioè loro sì, io no, non mi trovo bene con quelli della mia età. Perché diciamo la fase successiva, quella professionale, sarà i colleghi di lavoro, sì. Quelli sposati o quelli nubili. Perché più avanti nel tempo, infatti, più difficile trovare uomini soli. Lo sai questo? Sì, quanti anni hai te? 25. Ancora. Tu hai ancora una decina d'anni di pazza gioia. Non sono tanti. Sì, però fra 10 anni comincerai a vedere che gli uomini intorno a te, se sono soli, c'è qualche problema. Anche le donne, se sono sole, sì. Cioè, per 10 anni c'è qualche problema. No, per le donne sono sole, ma fingono, molte volte nascondono storie clandestine. E non è bello. Non mi piacciono. Non ti piacciono, che ne sai. Trovatici. Non ti sei rimessa in carreggiata. Ma non lo sai, non lo vuoi dire, dai. Dai, vuoti il sacco, se no io scendo. No, non voglio sapere particolari, sapere la tipologia solo. Mi piace, mi interessa la tipologia. Io sono Il classificatore. Sì, non voglio sapere caratteristiche. Ma nel senso che un amore passionale, che... un amore superficiale. No, difficile. Perché oggi nessuno è libero. Nessuno è un nanosecondo, è libero subito trova. Sì, no, subito dopo è fidanzato. Anche perché se uno finisce una storia, già è pronto a saltare sul guado successivo. Esatto. Chi è che lascia una storia quando non ce n'è un'altra? Nessuno, no? Infatti. È perché nessuno riesce a stare da solo. Sì. Quello è il problema. No, perché non è mica da tanto gusto stare da solo. Sì, però a volte rafforza. Serve anche quello. Sì, vabbè, uno si rafforza per cosa? Per far che? Mm-mm. Vabbè, in bocca al lupo. Al prossimo viaggio voglio sapere che tu hai trovato un pastore della Barbagia. È stata una vera storia d'amore. Ciao. Ok, ciao. E puzzerai di capra, magari, finalmente. Ciao. Ciao. Veure que no m'has entès. Jo t'em, t'ho dic, però ja ho saps. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'em i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Il passare delle epoche, viste almeno dal punto della moda maschile, possono essere sanciti dall'appendice estrema del pantalone. Come finiscono i pantaloni degli uomini? Beh, io ne ho passate tanti. Io ricordo gli orrendi pantaloncini al ginocchio con i bottoncini che costringevano a mettere negli anni 50 e 60. Anzi no, negli anni 50 erano ancora più orribili. Erano i pantaloncini a mezza coscia, strizzapalle, che erano praticamente degli oggetti che ci castravano. Andando avanti nel tempo, negli anni 70, i pantaloni a zampa d'elefante. Mio padre non voleva comprarci, da me e mio fratello, perché li faceva inorridire, ma li sognavamo, i pantaloni scampanati, i pantaloni alla Celentano. Poi andando avanti, i pantaloni sono ristretti al fondo, è venuta un po' la moda all'American Graffiti, quindi pantaloni strettissimi, tutti larghi, a vita altissima, improvvisamente una vita che ci fasciava, ma in fondo c'era il risvoltino. Prima un risvolto accennato, poi un risvolto un po' più alto, poi il risvoltone dei risvolti da coatto, da venditore di aspirapolvere. Poi finalmente ognuno ha fatto quello che voleva, non c'è stata più una regola fino all'insorgere del risvoltino. Il risvoltino è un collegamento alla moda hipster. La moda hipster sarebbe una moda di persone che vanno con dei grossi barboni, con un ciuffo a leccata di vacca sulla testa, con dei gileini di lana, con camice fantasia, con dei pantaloni molto attillati, con il risvoltino. Perché? Perché si deve vedere naturalmente la caviglia. La caviglia può essere variamente esposta, esposta pelosa, esposta imberbe, esposta col calzino, calzino corto, calzino lungo, scarpa alta o bassa. Il risvoltino è importante. Il risvoltino non è finale, il risvoltino è soltanto ripiegato. Ci sono state persone che hanno deciso di disrisvoltare i risvoltini in certe giornate particolari. Sul risvoltino si è inanellata una campagna di costume, una rivendicazione di virilità, e non potevo fare a meno di segnalarla. È ora che ci chiariamo le idee sul risvoltino ai pantaloni. Rappresenta veramente un pericolo dilagante per la sopravvivenza dell'Occidente? Parrebbe di sì dall'immarcescibile accanimento con cui alcuni giovani che hanno a cuore i principi atemporali della tradizione stanno lanciando campagne culturali per convincere i loro coetanei allo sdipanamento di quei 4-5 centimetri di stoffa. Per far comprendere la portata del fenomeno, il 1 aprile ci fu persino chi lanciò una campagna su Facebook che invitava a togliere i risvoltini alla gente. Aderirono 71.000 aficionados. I veri uomini dovrebbero avere in onta quindi il risvoltino. Il risvoltino in realtà, nel gusto estetico maschile degli anni 60, è sempre corrisposto ad un'immagine di ipermascolinità, quindi lo stigma inequivocabile di una selvaggitudine metropolitana, di una furia ribelle alle sirene del mondo moderno, in cui il pensiero di destra ha sempre attinto e assimilato la simbologia. Basti osservare ogni classica foto in cui posano orgogliosi e strafottenti gli skinheads inglesi. teste rasate, sguardo torvo di chi è pronto all'attacco, bicipiti in mostra e naturalmente jeans, attillati e infine risvoltino, palese, ostentato, perfettamente assemblato. Chi ci tiene a essere classificato vero uomo al 100% potrà tranquillamente portare il risvoltino senza tema di doversi svegliare una mattina trasformato in una fanciulla in fiore. Se parlando di treno nomino Tradotta, subito si pensa alle tristissime vicende del passato conflitto. Le Tradotte portavano i prigionieri, le Tradotte portavano le persone in luoghi di sterminio, in luoghi di prigionia. Ma Tradotta in realtà ha in sé un termine non proprio così tragico, o perlomeno non così finale. La Tradotta è il treno riservato anche ai militari nelle trasferte tra una caserma e l'altra. Posso dire che la mia generazione, 1954, è stata una delle ultime che ha conosciuto il brivido della Tradotta, cioè del treno che prendeva i militari dal CAR, dal centro addestramento regio, e li portava al battaglione a cui erano destinati. La mia Tradotta fu un viaggio lunghissimo che mi portava da Savona fino a Napoli, negli anni del terremoto, che mi aspettava naturalmente una parte essenziale del mio addestramento, che era la vanga e il piccone, per scavare laddove c'era stato il terremoto. La Tradotta era un vecchio treno, di quelli ancora con le panche di legno, puzzolentissimo, senza riscaldamento, senza condizionamento, in cui i militari stavano stipati, seduti a 4-5 per scompartimento, per panca, dico scompartimento, bisogna stare nella divisa, la divisa era ancora quella invernale naturalmente, di lana pesantissima, alto che risvoltino, qualcosa che pizzicava, sotto qualcuno metteva anche i mutandoni di lana d'ordinanza, che erano fatti di lana, sembrava fatta apposta, quasi un cilicio, poi le scarpe da libera uscita che erano orrende, erano delle scarpe da tortura, sarebbe stato molto più comodo mettere gli anfibi, ma queste scarpe lucide di cuoio che strizzavano i piedi, con dei calzini che era pura plastica e quindi ci piegavano i piedi, con lo zaino che andava messo con un particolare contenitore che per stare rigido, essere un cubo perfetto, occorreva comprare allo spaccio del militare una sorta di tondino di ferro che si metteva nell'intelaiatura dello zaino in modo che sembrasse un cubo, ma era tutto finto, era un sacco di juta con dentro una specie di fil di ferro. Con questa Tradotta ci avviamo naturalmente verso il battaglione. Il servizio militare è un'esperienza formativa, un'esperienza che io ricordo con grande nostalgia, anche per quando lo feci io, la guerra era molto lontana, si faceva per sorvegliare le caserme, i militari erano funzionali all'esistenza delle caserme che erano funzionali all'esistenza dei militari. Quindi naturalmente il ricordo di un ascoltatore della vita militare non può che suggerirmi nel mio comodissimo vagone di classe extra lusso, non è vero, ma mi piace lasciare tracce di invidia alle mie spalle, e lui che avrà solcato anche lui al suo tempo i duri e scomodi, impervi e puzzolenti scompartimenti di una Tradotta militare. Io ho cominciato a fare il militare nel settembre del 92, è stato un impatto un po' violento perché comunque abituato alla vita normale, alla vita di ragazzino. In quell'epoca avevo 18 anni, 19 anni credo. Squadra! Il primo giorno del militare mi ricordo che ci hanno vestiti in pratica, ci hanno messo in fila, erano delle file enormi. Eravamo in tanti, era comunque una caserma per il CAR, l'addestramento, ma era pure una caserma punitiva, nel senso che mandavano là in quella caserma mandavano anche persone che avevano combinato dei guai. La giornata tipo del soldato, almeno ai tempi in cui non si faceva la guerra, ma si facevano soprattutto dei filmacci con Alvaro Vitali e Bombolo, in cui venivano esaltate le doti delle dottoresse dell'ospedale militare, che poi non esistevano, erano sempre dottori, erano sempre dei tenenti colonnelli quasi in pensione, grassi, brutti, cattivi, che non volevano solamente mandarci a casa con le scuse che noi accampavamo. Era una cosa di una monotonia unica, veniva interrotta soltanto dai cosiddetti passatempi da militare. Uno dei passatempi da militare era avvolgere con del filo colorato delle penne in cui venivano scritti i nomi delle fidanzate. Ci si metteva in una sorta di bricolage che sembrava più un lavoro femminile che virile militaresco, ore e ore di stravaccamento sulla branda, e poi alla fine c'era questa penna con i piumazzi, con il nome della fidanzata, si tornava a casa, si portava la fidanzata, ma nei suoi occhi vedevamo un lampo e capivamo che nel frattempo qualcosa era accaduto. La nostra giornata tipo era, ci svegliavano alle 6, facevamo ovviamente la colazione, dopo l'alzabandiera subito a marciare, almeno 3-4 ore la mattina, sempre avanti e indietro, in lungo e in largo, con la richiesta di bere, di acqua, che certe volte anche ci negavano, però ci stava nel gioco, era l'addestramento, è questo. Il pomeriggio era durissimo perché dopo aver pranzato ci infilavano dentro la sala, insomma era un po' dura la cosa. Mi ricordo che finita l'esercitazione, ovviamente la lezione più che altro, si ricominciava nuovamente. La cena a Tumone era immangiabile, non era fattibile, poi specialmente abituati alle mani della mammina, vi ricordo che c'erano queste specie di sofficini durissimi, scaldi fuori e freddi dentro, che erano proprio immangiabili completamente. Mi ricordo benissimo il marchio della carne con scritto per esempio 1971, impresso sulla fettina di carne durissima che ci davano, chissà da quanto tempo era congelata quella carne. Sì, a posteriori c'è del fascino, ricordo anch'io i quarti di bue nelle celle frigorifere che venivano dall'Argentina, erano marchiati tipo un ventennio prima, ma ci dicevano che era buona la carne. Poi ci spiegava qualche maresciallo di cucina che bastava cucinarla con l'aceto, che puzzava meno, ma chissà perché poi c'era questa sorta di sadismo di farci mangiare male, su dei vassoi cromati che rimanevano impregnati dell'unto di 50 generazioni e di soldati che avevano lì mangiato delle cose orrende. In realtà le materie prime erano ottime, ricordo di grandi scatoloni con la cioccolata tattica, che erano degli scacchi di cioccolata nerissima e buonissima, che era l'unico lenimento alla fatica della corvée cucina, che si trattava di sgrassare in maniera impossibile dei grossi pentoloni in cui si era cucinato di tutto, ma si poteva sgraffignare la cioccolata. Io ricordo che allora mi sembrava al culmine di tutte le mie aspettative, ma ricordo anche che finito il militare mi passò anche la voglia di cioccolata. Squadra! I servizi più pesanti sono stati la guardia che ho fatto alle 2 di notte con il freddo incredibile, perché a Sulmona fa freddo. E mi ricordo che quando ho fatto questa guardia è uscito un ratto, poi ne è uscito un altro ancora, fino a quando c'erano migliaia di ratti, ma veramente migliaia di ratti. Le famigliole, quelli piccolini, i flirt fra vari ratti, le zuffe per il mangiare, si infilavano da ogni parte ed erano tutti ovviamente vicino ai locali cucina, quindi io da quel momento in poi non ho più mangiato niente all'interno di quella cucina, completamente. Ma topi non normali, erano ratti, erano proprio conigli, cioè voglio dire, è stata un'esperienza incredibile perché io ero a circa 4 metri di altezza, 5 metri di altezza, perché la garitta insomma ha una certa altezza, e le avevo proprio sotto. Ricordo che una volta ho fatto la curva cucina, mi avevano assegnato a pulire le pentole, terribile, proprio chi non ha stomaco secondo me non può mai fare una cosa di questo genere. Mangiavano praticamente almeno due compagnie formate da almeno 200 persone a compagnia, ma poi pentoloni, non è che pentoloni normali, quello così, erano proprio i pentoloni giganti, messi in queste vasche in ceramica bianca, tutte che tu dovevi pulire, si lavavano a mano, le pentole del giorno prima, quindi odori nauseabondi proprio terribili, a parte la nostalgia di casa eccetera, queste cose normali che sono sentimenti che uno può provare, secondo me questa è la cosa più terribile che ho provato, stare a contatto con il cattivo odore, con la sporcizia, con le cose sporche, con gli scarafaggi che poi giravano. Il treno va. Sapevo che introducendo la caratteristica che non mi interessa il genere di chi mi scrive lettere, avrei aperto il flusso delle lamentazioni maschili. Mi divertivo, devo dire, molto più con le donne, perché le donne sono più interessanti. Le donne ti raccontano cose che tu non sai. Le donne ti danno punti di vista che non sono simili ai tuoi, invece gli uomini dicono sempre le stesse cose. Ma devo essere rispettoso della volontà di chi mi scrive e quindi anche oggi, come la settimana passata, do ascolto a un uomo. Caro Gianluca, ho sentito la scorsa settimana che finalmente hai dato spazio anche alle mail degli ascoltatori maschi. E allora non perdo l'occasione per parlarti anche della mia situazione. Penso che possa dare un po' di equilibrio alla sequela di lamentazioni femminili sui maschi inaffidabili e immaturi di cui ho sentito parlare tante volte sul tuo treno. Ho 35 anni e sono fidanzato con una 32enne che ho conosciuto 2 anni fa. Ci siamo incontrati con amici comuni in un locale in cui facevano musica dal vivo. Io sono un appassionato come tanti, ma lavoro in tutt'altro campo. Niente di esaltante, ma pur sempre un lavoro. Ci siamo subito piaciuti. Lei, vivace e intelligente, non era la solita figa di legno, per usare un termine a te caro, e si esibiva di tanto in tanto nei locali come cantante. Aveva un gruppo con cui si divertiva a fare cover e qualche brano originale. Uso il termine divertiva perché questa attività le poteva dare entrate che non potevano considerarsi né consistenti né continue. E se parlo di questo aspetto economico è perché il nodo della questione è anche questo. Lei, per assecondare questa sua vocazione al canto, aveva rinunciato a trovarsi un altro lavoro e viveva ancora con i genitori. Io vivevo e vivo in un piccolissimo appartamento e col mio lavoro sono autosufficiente, ma non guadagno abbastanza da potermi permettere un affitto di un appartamento più grande in cui andare a convivere. Lei, di fatto, dorme spesso da me, ma la base è dai suoi. Dopo un anno, la ragazza 32enne in questione prova a fare il salto di qualità. Partecipa a ben 4 audizioni piuttosto importanti, ma non viene presa. Ha fatto un disco autoprodotto che non ha avuto grande seguito. Da lì, di fatto, ha capito che a 33 anni forse non poteva contare troppo su una carriera da cantante professionista. Ora quindi, che fare? Mi sarei aspettato che lei si sarebbe cercata un lavoro qualsiasi, e invece no. È uscita fuori una nuova passione, quella della fotografia. Si è buttata a capofitto, si è iscritta a 2 corsi di fotografia pagati dai genitori. Ha talento fotografico? Non lo so. Ha mostrato le sue foto a un amico professionista e mi ha detto che sono semplicemente gradevoli. Probabilmente avrà bisogno di anni prima di arrivare a un livello alto. E intanto? Caro mio, ti sei messo in una delle situazioni più intricate in cui possa mettersi un uomo desideroso di dividere o spartire soltanto parte della sua vita con un essere femminile. Hai scelto la donna con velleità artistiche. La donna con velleità artistiche, parlo con velleità, no l'artista, magari se trovi l'artista avrai una vita massacrata, consumata, piena di patimenti ma anche piena di passione. L'artista è realmente folle, l'artista è irrazionale, l'artista ti distrugge, però l'artista comunque ti lascia tracce indelebili. Viva la faccia, ti augurerei di trovare un artista, ma hai trovato un artista velleitario, cioè hai trovato una figlia di mamma che non c'ha voglia di fare una mazza, non si vuole impegnare, non vuole trovarsi un lavoro vero, non vuole nemmeno fare la mantenuta di un uomo perché in fondo lo trova che sia miserrimo per lui e si inventa artista. Oggi chiunque può fare l'artista, oggi l'arte non è più un concetto assoluto, oggi non c'è un metro che definisce la qualità dell'arte, quindi chiunque con una macchina fotografica in mano, con la capacità di poter usare un piccolo programma di fotoritrucco o anche semplicemente con 4 scalmanati che lo stanno ascoltare nel retrobottega di un bar, in un teatro occupato, in una qualsiasi platea, può illudere se stesso e turlupinare gli altri sul fatto che sia artista. Se l'artista fosse divertente sarebbe anche un affare, ma se l'artista è noiosa, se l'artista è incompresa, se l'artista è irrisolta, perché nessuno naturalmente darà mai il becco di un quattrino per la produzione artistica, ahimè è proprio un bel problema. L'altra sera siamo arrivati al limite estremo della mia capacità di sopportazione e mi dispiace. È venuto a cena un amico di un amico che fa il fotografo di matrimoni, il quale, quando ha saputo della passione della mia fidanzata, le ha detto che sta cercando un assistente e che poteva metterla alla prova. Al che lei ha rifiutato, dicendo che è interessata solo alla fotografia artistica, che poi sarebbe per lei fotografare tutti gli oggetti di casa con sfondo sfocato o selfie in tutte le salse. Finita la cena, abbiamo discusso e litigato. Le ho detto che se lei pensa che io lavori per me e per le sue velleità artistiche, si sbaglia di grosso. Io non ne posso più. Che futuro abbiamo così? Ancora a fare i fidanzatini a 35 anni? Allora, ti voglio chiedere, non pensi che ci siano molte donne in giro che rimuovono il presente in nome di ambizioni vaghe e vane e si nascondono dietro una vita pseudo-adolescenziale protratta a oltranza? E queste sarebbero le donne mature e responsabili che cercano un uomo con cui metter su famiglia. Secondo te, che le dovrei dire ora per non perderla? Guarda, io ti direi cinicamente che se l'artista ti diverte, se ci stai bene, se hai nostalgia della sua assenza, ma tienti anche l'artista, perché vuoi trasformarla in una reggi cavalletto per un fotografo di matrimoni? Che te ne fai? Sarebbe assolutamente anche miserrimo. Accontentati di guardare le sue nature morte, accontentati di annuire o mostrarti stupito per i suoi paesaggi, per le sue inesistenti velleità di poter mai dare un contributo all'introspezione dell'umanità, e tienti l'artista. Ma se l'artista t'ha stufato, t'ha scocciato, o se vedi lei una futura madre dei tuoi figli, una massaia, beh, è sbagliato proprio. Questa non farà mai una pazza in casa, stai tranquillo, non sarà mai una moglie se tu questo aspetti, ma non so che te ne farai poi di una moglie, non sarà mai la donna che ti farà sospirare e palpitare. Se è un bel accessorio alla tua vita, tientela così com'è, con tutte le sue velleità, dalle ascolto, non arriverà mai da nessuna parte, anzi auguratelo, perché se mai un giorno qualcuno, per un malaugurato caso, per una sorta di quei balzani sberleffi del destino, s'accorgesse quello che fa lei possa avere un minimo valore di mercato, beh, l'artista ti mollerebbe, che non saprebbe che farsi di un pantofolaio come te. Se invece il tuo problema è che non la puoi mantenere, quindi un artista è un lusso che non assolutamente è comprensibile nel tuo budget quotidiano, beh, trovati qualcun altro, trovati una brava ragazza un po' pelosa, con il culo basso, di quelle che sono tutte contente di sfacchinare in casa, e mettitela come moglie, che devo dirti, l'artista è al di sopra delle tue possibilità. Time. I know you should go where I suppose you would go